Lì, su, ci andiamo, su. Attenzione, Brigido, su che andiamo, Brigido, a Trento, Brigido. Ui, Biordo. Attento, Brigido, cos'è, non sei a Trento oggi? Ah, mi sono fatta essere in coma profonda, adesso mi faccio una bella doccia per svegliarmi, mangio, poi mi ci sono a ricoricare e domani mattina torno in servizio alle 5. Almeno sei bello fresco, rigido, dal fresco del mattino, capito? Ti fa bene. Ehi, a cazzo mi hanno aperto il canale, cazzo c'ho gli occhi che siamo come Simpson, con gli occhi gonfi. Tocca andare dalla dottoressa Manuè e mi tocca andare a fare l'ecografia a pagamento a chi non bisogna lunghi. Usando cantuoni, i bastardi. Eh? Abbassa un po' la televisione, Natale. 150 euro uni. Ah, che si sono fuori da vita, questo cazzo sono fuori di testa, vai. Questa cazzo va la succedere in Italia. Non ci sono posti, bisogna andare a pagamento per forza. 150 euro, giovedì devo andare, c'ho l'appuntamento. Che c'è di aro? Bubbe, io sono andando in veggia. Che cazzo è una che non è cosa cazzo devi fare? Devi cazzo farsi un fusso e sotterrarsi. Io so che sempre un chiccio d'urori e cosa posso? Curo d'urori rimango, Manuè. Mi ne ricapo da bocca, cosa vuoi ti dica? Nobili. Però devo andare a farla, ormai non vede una cosa, non è possibile cazzo avere questo dolore così. Ah, beh, dolore così allucinante, no, mamma mia. Ma ho ordinato delle pastiglie al posto del Brufen, la dottoressa, per il dolore proprio. Perché cazzo, già lo so che io sono combattendo. Già lo so, cosa vuol dire, già lo so, io lo stesso sono così, vabbè, io anche ho avuto questa operazione qua, è già tanto di cammino, e se non la facevo, marito rimanevo in carrozzina, vai a giù. E infatti, a pagamento, ma c'è su che già si è mandato di vecchio. E poi anche il peso, dopo anche il peso che mi comprime e quindi mi fa un po' più male. Sì, a Rusomi, per forza, mala sorte. E così mio cugino lo mattesse, va via l'ennia del disco, lo pereggia nel gas e esce dall'altra parte, è la bilaterale, ed è incannizzato. È brutto, ma sai, questo è un problema della schiena, un po' tutti ce li hanno, un po' tutti, e secondo come ti operano da veneggiare il buco. Infatti, un documento da pereggiano di tarruineggiano. Dai, ci sentiamo un po' più tardi, Natale, per la famiglia, dai, 10 minuti, un quarto d'ora. E già sono qui in ascolto, vai Manuel, fatti la doccia, fai. Briciola, ma ne ha due. Briciola. Cosa ti fischi? Ora! Uova! No, uova! Birri! Su, birri, su! Seguro che sì, per tranquillo, chiedo, flaquito, ma la...